Dragon con Can't Fight This Feeling. Dopo l'appuntamento con Backstage Pass siamo nell'ultima mezz'ora, gli ultimi 20 minuti, poi Claudia dalle ore 12 alle ore 14. In effetti da questa settimana sino all'ultima troverete proprio Claudia fissata in questa fascia oraria. Saluto Lele da Firenze che mi fa sapere che il nuovo dei Def Leppard è un album veramente bello, e l'avevo detto, anche quello dei Whitesnake, vi renderete conto se lo acquistate, se siete amanti di quelle sonorità, è veramente molto bello. Ancora un saluto ad un amico che non si firma, mi chiede quale canzone andate in onda intorno alle 11:20. 11:20 giuste giuste è partita I Love to Change the World dei Ten Years After. Precedentemente c'era Werewolves of London di Warren Zevon, quindi io ti ho dato questi due titoli, caro amico. Il prossimo titolo non lo annuncio nemmeno perché la conoscete tutti, o almeno spero. Secure you at the station. gasless diesel, goodbye window. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Solo finale, Cream, Eric Clapton and Company, un altro grande trio, terzetto. Precedentemente come trio c'erano i Motorhead con Ace of Spades, e saluto a questo proposito Melot by Bikers Brigade, e poi come trio ci sono loro, Cream con White Room. So what? who I'm loving you. Run, run, run, run, run. Look who I'm watching you. Run, run, run, run, run. Look who I'm needing you. Run, run, run, run, run, run. Look who I'm loving you. Run, run, run, run, run, run. Run, run, run, run, run away. If you knew how much I need to. Istanti per questa nostra giornata, per questo venerdì 9 maggio, weekend è in arrivo e quindi vi auguro di trascorrerlo nei migliori dei modi possibili, sia che rimaniate a casa vostra, sia che ve ne andate in qualche piccola località, in collina, al lago, come dicevo in apertura, o addirittura, visto che ci seguono in molti dalla Liguria e dalla Toscana, il mare lo avete di fronte. Fortunati voi, un po' vi invidio, francamente, aprire le finestre qua al mattino su, non via Locatelli, ma sul vialone che porta alla stazione centrale, non è come essere vicino al mare in Liguria, oppure in Toscana, oppure a Como, visto che ci seguono anche da Como, sul lago, eccetera. Altre situazioni. Bene, un paio di notizie prima di concludere. Allora, ricordo l'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy Live con i Saga e con i Primal Fear. A proposito di Hard and Heavy Nightmare, venerdì ci stiamo avvicinando, è il prossimo venerdì notte, dalle 00, quindi allo scoccare della mezzanotte, sino alle 6 del mattino del sabato 17, Max Deriu, Marco Gravelli, attenzione, perché molti me l'hanno chiesto, un po' di death metal, eccetera, ci sarà, per questo abbiamo riconvocato Witching Hour, che conduceva all'epoca un programma, dalla mezzanotte in avanti, guarda caso, conduceva un programma di death metal, quindi tutta la parte dei Venom, degli Slayer and Company sarà compito di Witching Hour, avrà anche lui un'ora di spazio all'interno del Hard and Heavy Nightmare, quindi un'altra piccola nota in più da segnalarvi. Le prossime due canzoni, no, la prossima è proprio l'ultima, quindi Claudia è già pronta da tempo, tra poco vi lascerò insieme a lei, io vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto durante la mattinata, ci ritroveremo come già detto questa sera 20:21 con lo spazio di Hard and Heavy e poi il prossimo lunedì 12 maggio dalle 9 in avanti. Vi lascio con Delta Lady, Joe Cocker, ciao ciao! Just Rock and roll. Rock and roll.